Simone, mi senti? Simona, mi senti? Mi sembra una... Giova, Giova, mi senti? Giova? No. Giova, mi senti? Giova? Chi è? Chi è? Mi ascolti? Avanti, chi è? Antonio. Sono Antonello, sono... Leoncino. Giovanna, mi senti? Ma come mi ascolti, Giuseppe? A volte si a scarica e a volte si bene. A volte a scarica, cos'hai detto? Sì, a volte si a scarica. Ho capito. Bene. Sto stato intendendo adesso, non ho capito perché la mia voce... Lo... Come radio va bene, so è il segnale a scarica, no? Ciao Marino, buonasera, mi ascolti? Non so cosa diavolo ha preso, non lo so, devo fare un controllo dopo. Ok, ci vediamo dopo, Giuseppe, ciao, grazie. Ciao, ciao. Sono di Rabucci. Ciao, grazie. Ciao, Mali. Ciao, Leonci. E cosa c'hai, grazie? Nulla. E non vesci. A casa, sto provando con l'entrino che abbiamo tagliato. Ci ho tagliato. Ho attaccato il cavo adesso, ma Giuseppe mi ha detto che sto facendo scarichi, non lo so, cavo nuovo, avanti. Ah, io qua ti sento bene, sono in veranda, ti sento bene. Ma sei col gommino, sì? Col gommino affacciato che sta scendendo dalla roba. Dunque, a te stavamo bene sulla scarica, la modulazione è bella chiara, sì? Sì, pulita, sono affacciato, sto scendendo la roba verso la tua zona. Sì, allora va bene, poi stasera chiedo qualche altro controllo stasera, no, perché ho perso proprio il cavo, ma chi mi ha saldato di pelle e me l'ho pensato, adesso infilo tutto, così dopo stasera chiedo qualche controllo, se va bene, perché sabato l'ho tagliata, capito? L'ho tagliata, l'ho fatto a misura particolare, a misura sua. Va bene, dai, continua a stendere, ragazzi, ci sentiamo dopo, grazie, grazie. Ehi, Aiglia, mi guardo anche spostata, posso grattacielo e ci sento lo stesso. E io ti ascolto benissimo, ti ascolto abbastanza bene, pulita, io va bene, dai. Ehi, va bene, ok, ok, magari dalle... Mi senti, sì, sì o no? Ehi, lo sai, questa frequenza è un po' strano, hai capito? È un po' strano, basta che sposto leggermente e non senti nulla, oppure si risolve con QRM. Va bene, dai, ci vediamo dopo, dai. Ehi, ciao. Ciao Giuseppe, ci vediamo dopo, grazie. Ciao Carlo, ci sentiamo dopo. Giuseppe, per anche il debutti giù. Ui. Ascolti. Chef d'Italia, buonasera. Ciao, oggi brodo di manzo. Buonarezzo, Eh beh, a me non c'ha qua un po' le bollella. Scusa, grazie, ma da dove mi sta scendo Giuseppe? Eh? Giuseppe? Parà Giuseppe, Mario. Mi arrivi a gruppo QRM, Mario. No, ma deve essere come se sono stato... L'ho sentito forte, poi è caduto, boh, non lo so. Va bene, ci stiamo dopo, dai. C'è stato detto, Giuseppe. Ok. Cosa che ha inteso che stavi cucinando anche da rosso, parisse? Vedi la ghita arrostito, E io ho speso pieno di gambe, abbottito. Brodino di mucca, buono, buono, buono, dolce mintato, tennara bene. Spettoncino messo, sì. Ah, nel brodo, il parmigiano mi ho messo, reggiano, fungo. Una dei due. A succia dura lui piatti. A due, no. E magari un chilo di pane. E un panino di altra giù. Un secondo me l'ha giù fatta a succia dura con la galluccia. Perché provo anch'io questo panino, provo lo mangio col pane. Ma sapete che il brodo mi piace mangiare in estate, non c'è freddo. Non c'è un po' di freddo, già mi piace volentieri. Il brodo, mi sento un picchio e roba qua, capito? Va bene, là, ti lascio attendere, già ci vediamo dopo, là, così finisco, mi sistemo tutto, poi un casotto, là, ciao. E poi accendo la 27, da. E ciao, grazie. E ciao, ciao. Detto gufo, non mi tassi. Tu sì, non mi tassi. Ho visto la sorella di affari, con Marina lì. È vero. Era per di qua, l'ha trovata. Sì, senza mamma l'ho trovata lì, abbandonata. Non fa andare in posto i suoi gusti, no. A piedi devi andare. Dammi tagliare. E io? La benzina a te, la benzina. No, c'è la mancava la miscella e la mammita. Secondo me Marina c'è la benzina. No, ha detto di no, ha detto che lì era con me, facendo la asparagi. Che ti hai fatto? Ha detto che non è per asparagi. Ho raccolto un po' di erba, quella che mangiano i cagnolini, e un po' di asparagi, ho fatto un biscuto, l'erba sintetica, cosa così. E poi la erba? E la sorta ad usori, ad usori a tutti. E Marina cosa avete? Vieni a dire. Ma tu devi andare con la macchina a riempire il cofano e farne un'altra mangiata. Ehi, già piacere, già se ne ha fatto tra le vieni, una mangiata già piacere. Sì, è dato un po' la mano al cuore, là. È un po' per mano o piccoli, grazie a Abba, cioè non erano molto grandi, capito? Una mangiata per noi ci è uscita, dai. Abba, un bel. Sì, già sono buono, a me piacciono un bel. Mi piacciono un bel. Sono buoni, sì. E io ancora io sono bel. L'altra sera è la piscina. Sì, ma non rimani in questo, come tutte le cose. Mi dà la brigata, se no non ho le luci, se no ancora non so se. Beh, si trovano più là, se no non è una piccola. Sì, la luce di lui. Sì, vabbè, scusi, di mangiare, io lo voglio una volta alla ghita. Siamo quasi animali. Poi se si ricompare giù un bel. La musica cambia, è normale, ce li hai, ma ti vedi ragazzi, mangi, capito? Il truppo trudieggia, è facile. C'ho mal di schiena, guarda. Ogni tanto mi bricca odori i voci. Vabbè, ma siete fatti bene, il freddo non finisce. Ma stamattina ho preso anche la morte, tipo studi, i rovinati tanto un freddo. Ho già un tappa due, un giubbotto grosso, ma non c'era tanto freddo. Poi, vabbè, l'ho messa a posto, la moto. Sono uscito a piedi e stava benissimo. Vabbè, grazie, ma non sono appassionato di queste cose, non mi attirano, sono sincero. Sì, Mi piacerebbe fare un tiro di tanto, ma non mi attira, non riesco a vedere gli studi. La grandissima parte di c'è anche il padre di Marina in campagna, ma non mi interessa, non sono cose che a me interessano. Compagna Giardina, te la fai cubicare da Luna, da Luca. No, a me mi piace. Ma c'hai tarli nel legno? C'ha disegni, disegnati in tarli, incassati, fatti con lo scalpello, con lo scalpellino, disegni, intarsiato nel legno. Ho capito, vabbè, un bel costa. Questa la piparata è bella, hanno quei colpi. La leva di armamento al fianco, ma la leva di armamento in testa, una volta che ho fatto indietro, ma davanti e a parte, non sai perdere tempo a mettere il pallino a uno a uno come l'altra regione, ma là è a leva basculata, questa invece hanno tutti parte qua, fai prima. Capito. Ma cos'è carabina? Questa è una carabina, questa è il calibro 4,5, il calibro 5,55, per di questo il pallino. Capito. 175 di volata a 50 metri, è un paese, è forte, c'è dentro di Gio Maria di Ivrea, Uia. Bella bella, poi c'è da capo di calcio alla spalla, c'è la gomma ventilata, c'è un gomino nero che è ventilato, cioè a fuori diagonale, poi c'è il giaguante, l'impugnatura di l'impugnata, la faccia sempre di cassata nera, questa, tutto. E stanno chiaro che sto qua, perché la slitta è da 11 minuti. Però stanno già le porte, non mi sono da solo un braccio e l'ho attaccato in due. In campo. Ma devo andare a fare la guerra? Allora hai capito, questo è il basso di chi? Due volte ti dico il braccio, ti fa tre butti. Dunque, non puoi arrivo anche alle scuole, là delle scuole, quindi mi metto la Puglia in mezzo di papà un rosso che viene per il casa si sta capendo a risa, eh no? Sì. Mi mettizzano, sì. La ciappano, io altro che mi mettizzano, eh. No, ma è morto, è qui. La parecchione è verniciata a bomboletto. Ma c'è qua la bandiera italiana, la bandiera americana, la ricurombe. E poi scappata, arrivi furenni, e pari alle bandiere, bambina. E ancora di capo, gli era morto nei giudici. Ah, ma è morto, è lui, eh. E l'hanno avuto. E mi sembra che era... la quarta la quinta, forse la quinta palazzina, quella che c'è giù a tutti qua, e dentro la palazzina lì all'ultimo piano sembra la pizza, e va per la figlia di Lucifici di Stato, e la nautilus è morta, vive da sole. Non ho capito, bubu, ia. Faccio una gana, sono mal di schiena. Avrei preso freddo, alla spalla, alla schiena, magari lì. Una schiena scappata oppure, ieri come ti hai vicinato, la segni, ti dice una spara, ti chiamo qua, sta trovato. Ti ha tirato il mio, vedrai? Sicuramente. Ma provato, via. A meno che non t'abbia tirato Marina, No, no. Io non lo so, ho già sparati, vicina, dritta, cammina, in lei va nata la roccia, a sabbi barati, si prova, sembra così valore. A quando ha finito si prova. Già lo so. Già lo so, vabbè, vedo come va, troppo. Fabrizio Frizzi è molto povaraccio. È morto anche il giudice, quella femmina, del programma Forum, quel programma che faceva Ricca della Chiesa. Adesso è tornato, non ricordo il nome. È morta anche quella, poverina, vabbè, chissà gli era più male. Fabrizio Frizzi che mi piace, 60 anni, ora dice, mi piace anche perché lascia la figlia, che ha 5 anni, purtroppo, è andata via a ottobre, e dice a voi che si era fissato, Voi dice Gesù Cristo lo auguri, è andata alla pace della terra, e si è arrigato. E allora, magari gli serviva un conduttore sulle nuvole e si sta buttando a essa. Allora se si buccia a buccare una decina di gente guascia. Oh no, no, la gente brava sempre. Confermo. Comunque chi subì e i nomi che adesso l'hanno arrestato. Ega. Quello che sta fatto per qua, sì, in garage, per il mio in garage. Mi hanno impiccato da cammino, c'è sul giornale di domenica, ce l'ho il giornale. Ha chiesto una giusta, un bombolaio di via del Portottore, sede un altro. L'ha pizzicato i carichelli della macchina con i bomboli di gas. E l'hanno detto, anzi l'hanno pulito, non c'è lo padrone. Anche là più si capiva, si fra grande, però già li hanno riconosciuti e mi hanno invidiato. Aspetta, vede, forse ho capito chi è, aspetta. Beh, scuocuomane. Un po' me da QRM ti sento, ritrova che sposto. A me, si mette in un'altra QRM a me, vuol dire che se la radio te l'hai comparata sola. Dipende dalla posizione, ciao Claudio. Allora, secondo, sempre questa già lo sai, ma secondo il punto 23, che l'appoggio sento male, devi sempre cercare il punto giusto. Da giù ti buoni l'antenna a vola, sai che con questo gommino, capito mi hai? Infatti sei molto, molto basso oggi, sennò prima ti sento molto bene. Ciao Lu. Ciao Cla, a me bene mi senti, sì. Tu sei oltre il 9, sempre, sempre, sempre. Di quelli che mutano col gommino sei sempre quello più forte. No, che ho posto buoni in nuda, ma non mi interessa, va bene così, guarda. Non mi interessa a me, né antenna, né antennino. Infatti, l'intenna la sai, senti, l'intennino la matta si cosa. Arrivi benissimo, vi ascolto tutti, io non ci sono problemi. Graziano un pochino basso oggi, ma sicuramente è quello. La posizione è un po' sbagliata. Va bene, va bene. Continuate. Già gioco in oghe. Ehi, a te, questa posizione, così ti prendo, perfetto, un po' meno. Ehi, grazie, io non già lo sai dove sono, quindi non ho ostacoli, non ho problemi, ti vedo, perciò anche basso basso, senza segnale, ma la radio la sento sempre, capito? Quindi non c'è problema, io ti ascolto. Vale. Non ci sono problemi, vai tranquillo, va bene, dai, continuate che io sono rientrato adesso, mi do una sistemata e poi accendiamo le radio a vedere se c'è qualcuno, ma come te sempre non c'è mai nessuno, perciò ne ridò il resto da, ciao, a dopo se coincide, vai Lu. Sì, a dopo, grado, anch'io se mi preparo che devo uscire. Ok, grado. Ma non me lo dà a me nel telefono. Mi dà questo qua che è successo ieri, mi sa. Questa ragazza, questa donna che cade sugli scogli, salvata nel mare in burrasca. L'ha salvata un ragazzo di Porto Torres che si è tuffato. Grazie, attento, me lo bene. core, core, core. C'è nessuno? Canale 7? C'è nessuno? Avanti, buonasera. Chi è? Chi sei? Sono Antonio Filiberto, tu chi sei? Luca. Come? Mi ascolti bene, sì. Sono tutto peloso, guarda. Tu chi sei? Mi senti? Sono Paolo Falcone. Pronto? Mi senti? Pronto, pronto? C'è nessuno? Ma chi? E chi è? Ma chi sei? Pensiamo che è gigante? No, è andata all'umacca, non c'è. Adesso ti ho ascoltato. Bene, ascolti, ma chi? Bomba. Benissimo. Come segnale, buono. Vedi un po' da riguardo. 1, 2, 3, prova, prova, 1, 2, 3, prova. A metà me la segni la scala. A metà, perché questo c'ha l'alberino e poi c'è la scala. Comunque come modulazione va bene, no? Chiara, chiara, chiara, proprio pulita, sembra che sia sotto casa. Sì, già va bene allora, dai. Magari può fare leggermente spostato appena appena, adesso non salgo. Domani o settimana vediamo. In prenotazione sta così, l'ho sposta appena appena, ma già gli lascio l'esercizio. Ma hai messo il capo nuovo? Sì, sì, quello di nuovo. Sta uscendo una bomba, è proprio pulito, pulito, pulito. Benissimo, va. Hai trovato la posizione giusta. Esatto, vai da, vai da 26, che ti stanno chiamando, va. E che cosa ti ascolta, Gio Maria? Ti sente bene? Oh, vabbè, stiamo arrivando, Giovanni, stiamo arrivando, dai. Sì, dai, per i 27 allora, dai. E ok. Ma chi sei? Antonello. Attenzione, Antonello, cambio. Che cazzo? Simona, mi ascolti? Simona? Hola, hola, hola, Simona.